Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata 68 di Picchi di Frequenza, nel vivo in compagnia di due ospiti, Enrico Sgarella, il presidente di Movimento Tellurico, e Francesca Zanza di Aperoma, che insieme ci raccontano la sesta edizione della Lunga Marcia 2017, quest'anno da Fabriano all'Aquila per un trekking solidale di 200 km. Storie di resistenza, di resilienza, ma anche con un appello alle istituzioni a fare il possibile per una ricostruzione celere, sostenibile e consapevole. Enrico Sgarella è il presidente di Movimento Tellurico, Francesca Zanza è invece un'attivista della sezione romana dell'APE, Associazione Proletari Escursionisti. A entrambi ho chiesto di raccontarci l'edizione 2017, la sesta della Lunga Marcia, quali sono i suoi luoghi, ma anche un pizzico di storia, da dove viene l'iniziativa e come mai hanno deciso insieme di costruire un'edizione assolutamente particolare che comincerà il prossimo 28 giugno e ci vedrà raccontarla anche in qualche misura in diretta, provando così a restituire la voce ai protagonisti della Lunga Marcia 2017. Nasce come un trekking di solidarietà con la città dell'Aquila. Nel 2012, se posso raccontare un piccolo aneddoto, mentre stavo in macchina e andavo verso Pescasseroli sull'autostrada, in rapida sequenza mi è capitata una trasmissione radio che parlava dell'Aquila, distante di 2 anni e mezzo dal terremoto, ancora immobile, senza nessuna iniziativa compresa per la ricostruzione. E subito dopo c'era qualcun altro che parlava di un tema ricorrente che ogni tanto rinasce, quello di costruire il ponte sullo stretto di Messina. A chi ha detto, bisogna fare qualcosa per protestare, bisogna fare qualcosa per sollecitare la ricostruzione del capoluogo abruzzese. Stavo pensando di andare a fare il cammino di Santiago, no, facciamo un cammino da Roma all'Aquila, lo chiamiamo Lunga Marcia per l'Aquila. Ecco, così nasce concretamente, diciamo, se vuoi continuo, insomma, o se vuoi fare domande, interrompimi. Diciamo che ogni anno abbiamo aggiunto qualcosa. Se ti ricordi, a maggio del 2012 c'era stato il terremoto emiliano e quell'anno la Lunga Marcia partì addirittura da Novi di Modena, 29 giorni di cammino per arrivare all'Aquila, per unire fra di loro i due terremoti più recenti, attraversando comuni, prendendo contatti con associazioni, con amministrazioni locali, per parlare a questo punto di prevenzione che all'inizio era, se vuoi, meramente la prevenzione antisismica, meramente sulle case, intervenire per quelle opere che fossero necessarie per la messa in sicurezza antisismica. Poi piano piano, ecco, la Lunga Marcia si è arricchita ancora di altri contenuti. Se posso arrivare a quella di quest'anno, che chiaramente è diventata più che mai attuale, perché dopo i 4 terremoti che ci sono stati in rapida sequenza, la prevenzione è diventata un qualcosa che ha a che fare con essere pronto. La Lunga Marcia è diventata una rivoluzione culturale, perché vuol dire prepararsi in un territorio che è notoriamente sismico ad affrontare le emergenze. Non si può aspettare 7, 8, 9, 10 mesi per avere le strutture abitative provvisorie. Il tempo è una variabile essenziale per mantenere le comunità, per non provocare l'abbandono di un territorio che è già gravemente abbandonato per l'emigrazione economica dagli anni 70 in poi, e quindi bisogna essere pronti, aver già predisposto le zone dove si installeranno le casette, aver già predisposto gli allacci per le forniture, aver già portata di mano, accantonate, le casette che dovranno essere montate. Quindi la lunga marcia di quest'anno è, da un lato, questa proposta, cioè prevenzione sì, ma nel senso di essere pronti ad affrontare le emergenze, e dall'altra diventa un modo per collegare fra loro territori che sono in questo momento scollegati. Le molte iniziative che ci sono in atto, che partono dal basso, di associazioni, spesso rimangono diciamo chiuse nel piccolo ambiente del singolo paese, quando non nascono addirittura gelosie. No, dobbiamo essere tutti insieme per arrivare a un risultato comune, che io vedo come una legge quadro che preveda come gestire le emergenze. Non possiamo avere diciamo dei poteri divisi in quattro regioni diverse. Occorre veramente una mente comune per affrontare queste cose, per essere pronti veramente alla prossima occasione. Fare esclusivamente un altro passaggio. Da una parte abbiamo parlato di una ricostruzione veloce, sostenibile, consapevole, con un'accortezza appunto al tema della prevenzione, dall'altra però nell'appello che convoca la lunga marcia si parla anche di incontrare e dare voce ai protagonisti della ricostruzione, quindi non soltanto un appello alle istituzioni a fare il loro pezzo, ma anche un invito a contrastare dal basso l'abbandono e quindi a segnalare quelle che sono delle esperienze invece che sul territorio resistono, sono virtuose, hanno bisogno di una visibilità in qualche modo, mi sembra di capire. Sì, esatto, infatti quando parlo di collegare tra di loro, parlo soprattutto di collegare tra di loro le realtà che stanno nascendo spontaneamente, lo possiamo dire perché abbiamo fatto tutta una serie di sopralluoghi in questi mesi, ecco, abbiamo incontrato persone splendide che si impegnano, che lottano, che vogliono ricominciare, e però ecco, quello che manca è una strategia comune. Divisione va superata. Noi chiederemo a tutti questi che poi rincontreremo durante la marcia di venire con noi all'Aquila l'8 luglio, perché nello spazio che si metterà a disposizione il Festival della Partecipazione, che è organizzato da ActionAid, Cittadinanza Attiva, Slow Food, all'Aquila, noi avremo la possibilità di far confrontare, di far raccontare le singole esperienze da tutti questi, e creare quindi, speriamo, questa rete comune che li possa collegare tra di loro. Non se ne esce se non ci mettiamo veramente allo stesso tavolo, se non troviamo, se non costruiamo la forza per poter ottenere certe cose, perché l'intervento, aspettare l'intervento governativo assolutamente non è una soluzione. Se posso aggiungere un'altra rivendicazione, assolutamente. Basta con la ospitalizzazione delle comunità colpite. Le comunità colpite dai terremoti vanno organizzate e coinvolte in prima persona nel controllo dei territori. Perché dobbiamo aspettare che arrivi l'esercito? Perché non è possibile che gli stessi cittadini che conoscono palmo a palmo il loro territorio non si organizzino già da prima per tutto quello che serve per tenerlo sotto controllo. Questa è un'altra idea che stiamo mettendo naturalmente al confronto di un dibattito, perché non è detto che quello che pensiamo sia oro colato, però secondo me la resilienza nasce anche dalla capacità di coinvolgere le comunità locali nell'attività di tutto quello che serve per partire per la ricostruzione. Non puoi aspettare, cioè portare i cittadini al mare, per carità, risolvi il problema, ma li fai ammalare di nostalgia, li fai ammalare di depressione. Tu non sai quanti si sono suicidati all'Aquila dopo il terremoto per essere stati esclusi da qualsiasi da qualsiasi partecipazione per la ricostruzione del loro territorio. E questo, vabbè, è un atteggiamento che veramente parlo di rivoluzione culturale, bisogna capovolgere completamente l'approccio attuale per quanto riguarda la gestione delle emergenze. Ecco, io a questo proposito, visto che dei luoghi che attraverserà questo trekking da Norcia, da Amatrice, da Cumuli, abbiamo avuto occasione dai microfoni di Picchi di Frequenza di parlare insieme alle Brigate di Solidarietà Attiva, ma anche insieme a Peppe di Aperoma in occasione qualche mese fa del montaggio del capannone. grandissimo amico mio, naturalmente, quando siamo andati assommati insieme sotto la neve, eroicamente battendo le brocche perché facevamo freddo cane, arrampicati su quei tralicci, vai. Ecco, ed abbiamo provato così a raccontarlo day by day. Ti chiederei da una parte, insomma, di darci dei riferimenti, contatti, anche i luoghi digitali in cui possiamo entrare in contatto con questa esperienza, dall'altra ti rassicuro sul fatto che avremo occasione, magari nei giorni proprio della lunga marcia e non soltanto in questo primo momento di presentazione, di tornare, insomma, sui luoghi insieme ai protagonisti, e poi passerei la parola invece a Francesca di Aperoma, che lo ricordo, insieme a Movimento Tellurico e Federtrek, che è tra gli organizzatori di un'iniziativa che poi vive di moltissime altre collaborazioni. Quindi un punto su quelli che sono appunto i contatti, i luoghi in cui vi possiamo seguire, e poi passiamo la parola a Francesca. Certamente, certamente. Si trova tutta tappa per tappa, anche dal punto di vista organizzativo, lo trovate su www.lungamarciaperlaquila.it o anche su www.movimentotellurico.it, nonché sulle pagine Facebook che si trovano appunto digitando le stesse parole, insomma, o Movimento Tellurico, Lunga Marcia per l'Aquila, o anche hashtag. Con le stesse, in tutti i modi di ricerca che si conoscono, insomma. E poi trovate tutto su APE, naturalmente, perché è diventata un'alleanza di ferro la nostra, assolutamente. Nel futuro chissà quali nuove imprese ci aspetteranno, vero? E quindi abbiamo solo cominciato a camminare. Speriamo di arrivare, io dico arrivare a camminare sulle acque l'anno prossimo, ma però questa non dica, mi fermo qui. Dai, Francesca, dai. Eccoci, eccoci. Io sono Francesca Zanza, faccio parte di Aperoma, Associazione Proletarie Escursionistiche, come forse gli ascoltatori di Picchi di Frequenza, insomma, ben sanno, è un'associazione, ha una storia lunghissima che però si è ricostituita da poco, in particolare a Roma si è ricostituita da un paio d'anni. Siamo ai primi passi anche, sia come associazione sia come gruppo di persone che va in montagna e che sta cercando un modo per andarci insieme, in modo collettivo, diciamo così. E quando Movimento Tellurico ci ha proposto di essere parte attiva nell'organizzazione della marcia, in qualche modo non ci è parso vero, perché era insieme l'occasione di metterci alla prova con un evento più grande del singolo trekking quotidiano, ma allo stesso tempo ci sembrava l'occasione di mettere alla prova una di quelle che è la nostra mission, una delle mission, delle varie mission dell'Ape, scusate la parola non bellissima, ossia quella di creare un rapporto vivo con le comunità dei luoghi in cui andiamo a camminare, insomma, per dire forse... Camminare per conoscere potrebbe sì, essere lo slogan. Camminare per conoscere, nel senso che poi i posti colpiti dai terremoti che si sono succeduti dal 24 agosto al 18 gennaio sono i luoghi in cui noi la domenica andiamo a camminare. Francesca non lo dice, ma ha un legame speciale. Sì, un legame speciale, sì. Tra l'altro stavo per dirlo, non sono solo i luoghi dove la gente di Roma va a camminare, tante persone di Roma... Di romani veri ce ne sono pochi, di romani che ad esempio vengono dall'Abruzzo ce ne sono tanti. Io vivo in uno, la mia famiglia è uno dei comuni colpiti dal terremoto, diciamo così. E quindi niente, ci è sembrata un'occasione perfetta da tanti punti di vista. Il Movimento Tellurico in particolare ci ha coinvolto in ogni aspetto e ci ha così chiesto di occuparci in particolare di un paio di tappe, anche perché noi volevamo entrare in questa grandissima esperienza della lunga marcia in punta di piedi con assolutamente no, andiamo in queste due entriamo in queste due tappe anche queste due tappe l'abbiamo vissuto come un regalo perché il Movimento Tellurico ci ha chiesto di occuparci in particolare delle ultime due tappe ossia la tappa le due tappe sono da Campo Tosto quindi dal lago di Campo Tosto la marcia arriverà a Campo Tosto venendo da Amatrice Campotosto a Colle Brincioni, che è un piccolo comune alle porte dell'Aquila, e poi da Colle Brincioni all'Aquila. Siamo molto contenti di queste due tappe perché in qualche modo, dal nostro punto di vista, senza nulla togliere a tutti gli altri comuni, però è un piccolo esempio, Campotosto ad esempio racconta bene la storia a cui accennava Enrico, è un comune isolatissimo dell'Appennino, di circa 500 abitanti tra Campotosto e frazioni, isolatissimo, pur trovandosi in un luogo di una bellezza. Se posso aggiungere che è rimasto distrutto dall'ultimo terremoto del 18 gennaio e nessuno ne ha parlato perché è rimasto nel cono d'ombra di quello che era successo prima, con la neve che copriva tutto poi oltretutto. Sì, il 18 gennaio Campotosto è famoso perché è uno dei luoghi dell'Appennino in cui continua a nevicare in maniera furiosa, cioè lo sanno queste tormente, il 18 gennaio povere persone, insomma, proprio durante una terribile tormenta che addirittura gli impediva di uscire di casa, si sono ritrovati tra capo e collo, anche il terremoto scosse fortissimo, insomma. Che vivono una lotta per la sopravvivenza e il terremoto, proprio per la sopravvivenza di quei posti, di quelle comunità, e il terremoto arriva come una mannaia perché in qualche modo è come se poi il fatto in sé per sé, la distruzione poi materiale delle case, questo diciamo invito un po' tacito, però se ben andato è meglio, ecco, detta in maniera brutale. Invece vedere queste persone che resistono, ma da prima del terremoto anzi ritornano, perché se vogliamo raccontare la storia di Assunta, è ritornata da Roma a vivere a Campotosto aprendo una scuola di telaio tradizionale con l'utilizzo di fibre come lino, canapa, che sono anche passate di moda, nel senso che un tempo erano assolutamente presenti in tutto l'Appennino, poi pian piano dimenticate come coltivazione, come tessitura, e lei ha riaperto questo laboratorio e raccontava di questo telaio uscito dalla finestra della casa distrutta dal terremoto, che gli sembrava come un parto, come se stesse, non sapeva se ridere o piangere, in questa occasione veramente drammatica, insomma. Sì, ci sono storie incredibili. E poi l'altro aspetto importante è che, insomma, questi posti stanno nel Campo Tosto, il lago di Campo Tosto è nel centro del parco del Gran Sasso, lì si potrebbero fare discorsi enormi di turismo sostenibile. Poi un po' commuovono perché hanno subito poi sempre il torrente dal centro, ad esempio a Campo Tosto all'inizio del secolo c'era una grande comunità legata a una torbiera tra le più importanti d'Italia, arrivano, sfragano tutto dal centro, da Roma, per fare il lago, che è un lago artificiale, e un po' poi lo spopolamento, non si investe in queste zone e tutti se ne vanno. Poi il terremoto, vogliono restare, li vogliono andare via. Sono storie anche belle di gente che prova a lottare per rimanere dove è nata e vissuta. E così. Poi si arriva a Colle Brincioni, che è un piccolo comune alle porte dell'Aquila. Colle Brincioni è importante a sua volta perché è stato colpito durissimamente dal terremoto del 2009. E racconta quella comunque la storia. È un po' stato anche un luogo in cui c'è stato un eccidio nazista. Ed è un piccolo comune che in qualche modo sta tentando di rinascere, racconta un po' un post appunto legato agli eventi del 2009. E lì ci hanno proprio aperto le porte, sì, no? Sì, proprio c'è grande festa faremo a Colle Brincioni, e da lì si entra dentro l'Aquila, che è sempre un colpo al cuore, insomma. Beh, l'Aquila, se posso raccontare l'esperienza più recente, circa 2 settimane fa ho accompagnato 2 classi quarte dell'Istituto del Liceo Artistico di Roma, di Via Ripetta, con gli insegnanti, a fare chiamiamolo un trekking urbano, però era anche prendere conoscenza diretta dello stato della ricostruzione, dello stato attuale del capoluogo abruzzese. Naturalmente bisognerebbe aprire tutto un discorso sui danni provocati da certe scelte all'epoca, come quelle di disperdere la popolazione in un territorio che è più vasto del raccordo anulare di Roma, senza collegamenti, senza nessun luogo sociale, e capisci che ricostruire una città che ha perso 15.000 abitanti, attenzione, partendo da una dispersione edilizia e strutturale di questo tipo, è estremamente complesso e complicato. Comunque il centro storico, ci sono case, molte sono state ristrutturate, la domanda è come verranno abitate, ma su questo ancora non sappiamo nulla. Allora, io vi ho silenziosamente lasciato raccontare questa storia perché anche noi, piuttosto lontani, l'abbiamo così vissuta nei racconti appunto di chi come Peppe o come le BSA ci hanno provato a dare qualche riferimento. L'abbiamo vissuta con il corteo fatto all'Aquila ormai qualche anno fa, abbiamo provato a seguirla attraverso dei percorsi solidali che portavano, insomma, gli aiuti più nella fase così della prima emergenza, quando non si sa neanche bene effettivamente che cosa serva, e provando quindi appunto a mettersi in ascolto, come abbiamo fatto quest'oggi. Abbiamo completamente sbracato con i tempi che ci eravamo dati, quindi ringrazio sia Enrico che Francesca, e possiamo benissimo rinviare un'altra rubrica per dedicare il giusto tempo. Naturalmente ti aspettiamo per strada, magari quando vorrai. Se non saranno questi 200 chilometri, lo ricordiamo, di marcia, sarà la prossima occasione, perché in questo periodo il lavoro ci trattiene purtroppo nel Piano Padano, però vi rinnovo l'invito, ringraziandovi per essere stati con noi, a risentirci verso la fine di giugno e i primi di luglio per raccontare, questa volta non presentandola ma in diretta, diciamo scarponi ai piedi, qualche passaggio della lunga marcia 2017. Va bene, ciao a tutti. Grazie. Ciao e grazie a voi. Ciao. Thank you. Le nostre segnalazioni della settimana in fatto di eventi di montagna cominciano con l'Ape di Milano, che questa domenica, in occasione del suo Cine Senza Forum al Piano Terra, presenta To the North, un film documentario di 40 minuti che racconta l'idea e l'avventura di tre amici tra Finlandia e Norvegia, Matteo, Stefania ed Enrico, 285 km da Angeli all'Oceano Artico. Mentre il prossimo 2 giugno apre il calendario estivo dell'Ape Romana ed apre anche la festa del rugby popolare torinese della Dinamo d'Ora. Se siete da quelle parti avremo anche occasione di incontrarci per una presentazione di Sport e Proletariato, sempre il 2 giugno, weekend intenso, comincia da Avigliana, appunto dal venerdì 2 a domenica 4, il festival Alpinismo Molotov, di cui avremo occasione di parlare la prossima settimana. Un'ultima segnalazione invece viene 2 settimane più avanti, perché dal 16 al 18 giugno comincia SPOP, Festival dello Sport Popolare della Valle Trompia, appuntamento a Sellero, 16-18 giugno. Anche questa puntata, ed era la numero 68 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero vi sia piaciuta, vi invito a condividere con tutti noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza, dove trovate settimana per settimana segnalazioni, anticipazioni, anteprime e ovviamente l'audio della puntata, o sul social network azzurro all'account @abuzzo3. Se quello che vi interessa invece è l'archivio completo con tutte le trasmissioni, tutte le puntate, la possibilità di download eccetera eccetera, ci trovate sul sito internet amonte.info. Se invece quello che preferite è sentirci in modulazione di frequenza o in streaming, noi andiamo in onda e ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.